parlare e a raccontare quello che sta succedendo un po' nei vari paesi del Maghreb. Allora, ci accompagnerà come colonna sonora, come ben state ascoltando, gli Speed Caravan. Di dove sono? Maghrebini, diciamo, rimescolati come spesso accade a Parigi. Allora, iniziamo a parlare. Egitto, 50.000 in piazza, Mubarak se ne vada, coprifuoco, si parla di addirittura la Repubblica intitola sarà intafada. Ha scritto, stava leggendo così. Traslitterata in realtà, non è una traduzione. Allora, parliamo un po', insomma, cosa sta succedendo in Egitto, le cronache di questi giorni, insomma... Si sono adesso, l'attenzione è improntata sull'Egitto, però nei giorni scorsi abbiamo visto diverse altre nazioni. Insomma, lasciamo per ora da parte l'Albania, però l'attenzione sulla Tunisia piuttosto che la Giordania, di cui insomma si parla di meno, ma anche in Giordania ci sono state diverse manifestazioni. Insomma, cosa sta succedendo? Ma in realtà sì, forse bisogna cominciare a chiedersi che cosa sta succedendo nella sponda sud del Mediterraneo. Si è cominciato in Algeria, poi c'è stata la Tunisia, ora l'Egitto, ma se guardiamo bene era successo qualcosa anche in Libia soltanto un paio di anni fa, con una feroce repressione e molti morti per alcune rivolte. Ci sono state rivolte negli ultimi giorni perfino nello Yemen, e poi ovviamente c'è lì la grande repressione subita dai movimenti iraniani ormai negli ultimi 5 anni, e in particolare dopo le elezioni presidenziali dello scorso anno, a testimoniare che nel mondo, definiamolo arabo e musulmano, ovviamente gli iraniani non sono arabi, insomma, ma per capire lo spazio di senso in cui accade tutto questo, sta succedendo qualcosa che probabilmente anche al di là della violenza e della forza della rivolta di questi giorni al Cairo, come già accaduto in Tunisia, ci comincia a dire che si sta producendo qualcosa che in quella parte del mondo non si era mai prodotta. Cioè stiamo assistendo allo svilupparsi di un incendio che in queste proporzioni non era mai accaduto dai tempi delle rivoluzioni contro il colonialismo, delle guerre di indipendenza o dei movimenti di liberazione nazionale più o meno tra il periodo della seconda guerra mondiale, gli anni 50 e 60, l'indipendenza algerina del 61, insomma, tanto per dare qualche data. E sostanzialmente da allora nulla era più cambiato. Ovviamente quello che accade oggi ci interroga perciò su che cosa è accaduto in questo mezzo secolo in questi paesi, ma credo che ci fotografi, ci aiuti in qualche modo a comprendere come non sia soltanto il passato che ci può illuminare, ma sia anche il presente. Un presente che, e forse questo, insomma, poi questo può anche essere oggetto di discussione, ma che ci dice che probabilmente nell'era della globalizzazione, che dir se ne voglia, nel bene o nel male, in qualche modo la democrazia o è ovunque o non è in nessun posto, e nel Maghreb la democrazia non c'è, e oggi qualcuno se la sta conquistando sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista dei diritti veri e propri. Diciamo che sicuramente influirà anche in maggio le politiche europee che ci sono state nei confronti, diciamo, del Maghreb negli ultimi anni. Immagino anche, nella trasmissione prima abbiamo parlato di decreto flussi, immagino anche tutto quello che è un livello di gestione della migrazione e di sfruttamento così forte e così di tutta la forza lavoro, appunto, che veniva dal Maghreb. Ma credo si possa definire con un'immagine che è quella del tappo la situazione di questi paesi. Perché il tappo? Dicevamo prima, le rivoluzioni nazionali, i movimenti di liberazione nazionale, il socialismo panarabo, il grande sogno panarabo incarnato in quell'Egitto oggi messo a ferro e fuoco da Nasser, la fine di quella stagione, più o meno alla fine degli anni 60, i primi anni 70, segnalò che quei paesi che si erano così a fatica liberati dal colonialismo occidentale, francese e inglese in particolare, avevano visto progressivamente instaurarsi dei regimi che non avevano mantenuto le promesse. Leader di quelle rivoluzioni nazionali si erano trasformati a loro volta in despoti, avevano cominciato ad utilizzare la religione nello spazio pubblico pur avendo guidato delle rivoluzioni laiche che intendevano non far tornare indietro quei paesi ma mantenere, diciamo, un livello di diritti pari a quello che, diciamo, la tradizione europea non aveva solo importato militarmente ma aveva anche esportato culturalmente in tutto il mondo dopo la rivoluzione francese. E la situazione è rimasta praticamente bloccata. Parliamo di paesi in cui i presidenti della Repubblica o i Caid locali sono al potere da 20, 25, 30 anni, dove finita la loro stagione già si immagina che saranno i loro discendenti. È il caso di Mubarak in Egitto, parliamo di un signore che ha più o meno l'età di Berlusconi e che già ha candidato il suo figlio a prendere il suo posto. Bouteflika è stato eletto 3 volte in Algeria e parliamo di 15-20 anni. Ben Ali stava lì dagli anni 80 in Tunisia. Gheddafi lo sappiamo, stiamo parlando di un quarto di secolo. Cioè stiamo parlando di paesi in cui sostanzialmente una sorta di monarchia si è sostituita al vecchio impero coloniale. Ovviamente il sogno della liberazione si è arrestato a liberare il paese dagli stranieri, tutto ciò che sarebbe dovuto venire poi non è più arrivato. E in questi anni ovviamente è cresciuta la povertà, la miseria, ma con i mezzi di comunicazione, con la globalizzazione, anche il fatto di potersi specchiare nell'altra parte del Mediterraneo. Solo per fare un esempio, l'immigrazione maghrebina in paesi, pensiamo come la Francia, dove c'è un elemento di integrazione maggiore proprio per l'ex storia coloniale di quel paese rispetto all'Italia, molto spesso i figli e i nipoti, i cosiddetti immigrati di seconda o terza generazione, vanno l'estate a passare le vacanze al mare in Tunisia o in Algeria. Lo scambio tra quei ragazzi e i loro coetanei che vivono nella banlieue di Parigi e di Lione è costante. Gli stili musicali, lo sguardo sulle cose, un fenomeno musicale come il Rai alcuni anni fa, Shab Khaled, qualcuno se lo ricorda, è stato un fenomeno transnazionale che partiva da Orano piuttosto che Algeri e arrivava a Parigi e faceva il cortocircuito tornando indietro, producendo lavoro, producendo scambi, segnali, eccetera eccetera. Quindi un mondo sempre meno stretto e chiuso, ma che invece era limitato. Poi ovviamente è arrivato anche l'elemento della chiusura rispetto all'immigrazione, perché qual era la valvola di sfogo per molti di questi paesi? L'idea di poter scappare da quella condizione verso l'Eldorado rappresentato in qualche modo, spesso in modo sbagliato, dall'Occidente. Negli ultimi anni la chiusura progressiva della frontiera del nord, cioè della chiusura della possibilità di entrare in Europa, addirittura con quegli accordi che conosciamo bene, sia con Ben Ali che con Gheddafi, hanno visto governi europei stringere alleanze con veri e propri dittatori in virtù del fatto che loro possano garantire, proprio perché guidano regimi sostanzialmente dittatoriali, che nessuno si muove più. E sappiamo che fine fanno gli immigrati che provano a passare nel deserto libico, le donne, i bambini, eccetera eccetera. A questo punto che cosa succede? Succede che questa situazione non ha più vie d'uscita. Il tappo è completo, non si può crescere nel proprio paese, perché, ed è quello che ci dicono tutti i dati, in un paese in cui la demografia è sempre più simile a quella europea, cioè si fanno meno bambini, e quindi che cosa succede? Succede che con la scolarizzazione che cresce e una demografia in calo, in qualche modo le aspettative di vita e di realizzazione personale, non dico che siano uguali a quelle dei cittadini europei, ma cominciano ad assomigliarci, a migliarsi. Studiare, avere un titolo di studio, pensare di costruire una vita, una famiglia, eccetera eccetera, comincia a diventare un elemento. Cioè non stiamo parlando, questo lo dico per chiarezza, per chi avesse questo in mente, non stiamo parlando del terzo mondo, stiamo parlando della periferia delle nostre città e della nostra cultura e delle nostre metropoli, con molte altre contraddizioni ovviamente, con un tasso di povertà e di fame molto molto più grande. A questo punto che altro si può fare, verrebbe da dire, se non rivoltarsi per cercare di modificare questa situazione? Questo è un po' quello che sta accadendo, credo, in questo momento, e il fatto che la rivolta, indipendentemente da dove parte, si stia estendendo a tutto questo mondo, beh, insomma, la dice lunga su che cosa c'è dietro. Ancora 87.9 Radio Onda Rossa Speed Caravan, stiamo parlando del Maghreb, in particolare Algeria e Tunisia, scusate, Egitto e Tunisia. Ti volevo chiedere innanzitutto, secondo te quali sono, cioè, le classi o comunque la componente sociale che in qualche maniera si sta ribellando in questo momento, che a mio avviso da spettatrice, perché conosco veramente poco, non sono mai stata eccetera, guardando anche la televisione la vedo un po' diversa forse tra la Tunisia e l'Egitto. In Egitto, cioè, vedendo le immagini si parla, si vede, no, proprio ragazzini per strada, minorenni eccetera, in Tunisia un po' più forse universitari eccetera. Sicuramente ci saranno delle vicinanze e delle diversità anche nel ribellarsi. Sì, diciamo che uno dei protagonisti della rivolta tunisina, o forse bisognerebbe cominciare a parlare ormai di rivoluzione per il peso che questo, quello che si sta producendo, sta già realizzando, era un giovane diplomato, laureato, diciamo, le agenzie di stampa l'hanno raccontato in modo diverso, comunque una persona con un titolo superiore, di studio superiore, che non era riuscito a fare nessun tipo di lavoro per il quale aveva studiato, ed era stato costretto a fare il venditore ambulante in un mercato con un carretto, e soggiacere per questa via alle umiliazioni costanti degli sgherri del regime, poliziotti, agenti di corpi speciali. Ovviamente in questi paesi il controllo sociale è totale, parliamo di paesi con numeri di spie e di agenti enormi, tra quelli palesi e quelli ovviamente che non si vedono, quindi insomma un mondo fatto di spionaggio e di controllo. Stufo, diciamo, di ricevere umiliazioni, era stato aggredito, era stato umiliato pubblicamente. Per rivendicare i propri diritti, questo ragazzo, meno che trentenne, si è dato fuoco, e questo ha segnato l'inizio della rivolta in Tunisia. E che cosa ci dice questo? Ci dice che si è formata in questi paesi una nuova classe, non so se definirla classe media, comunque una generazione di giovani, un po' come si è visto negli scorsi anni in Iran, che escono dalle scuole superiori, se non addirittura dall'università, e che vorrebbero, un po' come accadeva nel 68 europeo, che il loro titolo di studio, che i sacrifici spesso fatti da loro stessi o dalle loro famiglie per mantenerli agli studi in condizioni comunque di disagio, come può essere quella di questi paesi, potesse portare poi a che loro accedessero in qualche modo a un ruolo diverso all'interno della società. Ma il tappo di cui si parlava prima, il blocco politico, impedisce in qualche modo che fuori dalle logiche della corruzione delle clientele si possa trovare un lavoro decente. Questo è un elemento. L'altro elemento è il permanere in molti di questi paesi di una parte diciamo di sottoproletariato, parliamo anche di territori in cui c'è stata un'urbanizzazione molto rapida, ma dove nelle campagne o nelle montagne, penso nell'Atlante del Maghreb, permangono delle condizioni di vita arcaiche molto spesso, e in cui, come dire, la povertà è la povertà antica, è la povertà dei pastori, è la povertà di chi ha un piccolo pezzo di terra da coltivare e che magari va ad affollare le bidonville. Il Cairo è una città enorme, fatta prevalentemente intorno alle zone normali, diciamo metropolitane, di casupole e baracche per chilometri, chilometri e chilometri e chilometri, che sono stipate da gente che viene dalla valle del Nilo piuttosto che da altre zone interne, dove non ha più da mangiare, dove addirittura la carestia, no? Cioè qualcosa da Africa subsahariana, da Africa profonda, da deserto, può mietere vittime. E questi due elementi, quello di una povertà antica a cui non si è mai dato risposte e come dire, che è stata controllata con la repressione, ricordiamo anni fa in Algeria dove permane la questione dei berberi, no? La regione della Kabilia, c'è una regione in cui c'è una minoranza culturale, linguistica, che viene tenuta in scacco e in cui si impedisce anche che le condizioni economiche migliorino. Quindi in qualche modo questi due elementi, cioè da un lato l'emergere di un nuovo ceto medio, così potremmo definirlo, che cerca in qualche modo di andare avanti nella società e che vede anche il limite del potere politico precluso, e dall'altra parte un'enorme povertà che ovviamente peggiora di volta in volta nei momenti in cui la crisi economica, quindi l'aumento del prezzo dei generi di prima necessità, il pane, il latte, la semola o quant'altro, diciamo mette a rischio addirittura di sopravvivenza. Quindi qual è la fotografia sociale? La fotografia sociale è quella di giovani metropolitani tendenzialmente all'interno di un percorso di formazione, o che abbandonano un percorso di formazione perché pensano non ci sia più nulla da fare, giovani e famiglie inurbate dalle zone economicamente svantaggiate, e poi grande parte, diciamo, di popolazione costretta in condizioni di vera e propria miseria. E questo è uno spaccato che ovviamente poi cambia a seconda delle realtà nazionali, delle condizioni, ma è la vera novità, diciamo, di questa stagione, che mentre in precedenza c'erano stati dei movimenti più politicizzati, che ne so, all'interno delle università, però di una sorta di elite sociale del paese, o le vere e proprie rivolte del pane, oggi questi elementi tendono a saldarsi fino a comporre una rappresentazione sociale così ampia da mettere addirittura in discussione la stabilità di questi regimi. E quindi invece la composizione politica, nel senso, quale sarà poi l'alternativa a tutto ciò? Perché comunque immagino che 20-30 anni di tipologia del genere a governare, le opposizioni o delle formazioni di opposizione in qualche maniera non ci siano, e dallo spontaneismo semplice non si arriva poi molte volte a... si arriva dove? Ma diciamo che qui c'è un'altra cosa da raccontare molto, molto rapidamente, ovviamente, rispetto alla storia di questi paesi. Il socialismo panarabo, i movimenti panarabisti, con tutte le specifiche nazionali, nel senso che l'FLN algerino non corrispondeva diciamo al movimento degli ufficiali guidato da Nasser o da Sadat in Egitto e via via, avevano identificato nell'Islam politico, che era già attivo, cioè i germi dei Fratelli Musulmani non sono post 11 settembre o attorno, diciamo, al conflitto di civiltà di cui siamo abituati a parlare, ma datano degli anni 20, diciamo che nei paesi dominati dal colonialismo, nel Maghreb e in altre zone islamiche, c'è chi immaginava la rivoluzione nazionale, la liberazione dal colonialismo, non come un'ipotesi laica, quindi mantenere un'impronta democratica, ma diciamo senza l'occupante, senza l'imperialismo, potremmo dire, ma questa dimensione di identità nazionale coniugata con l'Islam. Questa genesi politica è del periodo tra le due guerre mondiali, quando diciamo vennero fondati i Fratelli Musulmani e iniziò la predicazione dei loro leader. I loro leader saranno impiccati negli anni 50 da Nasser. Il vero scontro in quelle società si cominciò a produrre già all'epoca. Perché ricordare oggi questo? Perché i Fratelli Musulmani, che rimangono e sono diventati in molti di questi paesi, con diverse denominazioni e diversa forza, molto molto forte in Egitto, molto meno forte nel Maghreb, ma con una presenza anche di cose simili, diciamo di movimenti simili anche in quelle zone, hanno ovviamente rappresentato in questi anni un'opposizione a questi regimi dittatoriali, che però in modo contraddittorio si facevano anche portavoci dell'identità democratica e addirittura e laica. Non è un caso che questi paesi, la stessa Algeria rivoluzionaria o l'Egitto di Mubarak, siano diventati anche dei partner per il mondo occidentale, perché paradossalmente, pur reprimendo e negando la democrazia al loro interno, si rappresentavano sul piano internazionale come dei paesi democratici laici nel momento in cui cominciava a crescere la cosiddetta minaccia islamista. Quindi l'Islam politico di questi paesi non è una reazione all'Occidente, è un fenomeno tutto interno, ed è la reazione semmai alla secolarizzazione di quelle società che il panarabismo rappresentava, perché rappresentava l'emergere di nuovi ceti, di una nuova società. E ovviamente il problema oggi si pone. Perché? Perché proprio l'aver fatto identificare i valori laici, democratici e spesso, ai noi, di sinistra, perché questo va detto, non è il caso di Mubarak, ma è il caso dell'Algeria, per esempio, no? Un governo di ispirazione sostanzialmente socialista, no? Per molti anni. Che cosa di socialista avesse dopo aver cacciato i francesi è difficile dirlo, ma insomma, hanno fatto sì che in qualche modo l'opposizione si sia spesso, laddove ha potuto organizzarsi, organizzarsi intorno a qualcosa che assomigliava ai Fratelli Musulmani. In più, in alcuni paesi, come il caso dell'Egitto, dove appunto i Fratelli Musulmani erano molto forti perché fondati lì, quindi con una struttura anche caritatevole di assistenza, ospedali, ambulatori, scuole, eccetera, eccetera, il regime ha tendenzialmente concesso a questo movimento di tamponare le falle di uno Stato sociale sostanzialmente inesistente, cioè di offrire attraverso le organizzazioni caritatevoli islamiche quei servizi che lo Stato non offriva. Con il risultato che c'è oggi in Egitto una larga presa sociale di un movimento che è comunque di base conservatore, perché che se ne dica, i Fratelli Musulmani non possono essere certo definiti un movimento progressista, quindi una base di massa per, diciamo, un movimento, come tutti i movimenti religiosi, conservatore, certo, che però rappresenta in quel paese anche un'opposizione democratica, no? A chi in nome della democrazia reprime e tortura. Quindi un vero cortocircuito. In questo contesto è molto complicato, ma, e aggiungo l'ultima cosa, è chiaro che quello che sta accadendo sta prendendo anche un po' la mano ai movimenti organizzati. Non è ancora detto, diciamo, quando ci si dovesse risedere a tavola, come si usa dire, chi saranno i partner, perché questo è un movimento che sta viaggiando in rete, su Facebook, su Twitter, sta, diciamo, mettendo in campo non solo una diversa comunicazione, ma nuovi soggetti. E questo probabilmente dice qualcosa anche di quello che potrà accadere. In Iran l'abbiamo visto, non c'è solo la vecchia opposizione politica che magari è frutto di qualche frattura all'interno del regime degli Ayatollah, ma ci sono anche realtà nuove che crescono anche di manifestazione in manifestazione, con un modello in qualche modo di costruzione dal basso. Certo, è un parolone, ma questo è un po' quello che sta avvenendo. E quindi, malgrado siano probabilmente gli islamici ad essere i più forti sul terreno, non è detto che l'esito sia quello, in qualche modo, che dai regimi laici ma dittatoriali si passi a un'ipotesi di democrazia ma conservativa e dal volto islamico, insomma. Yeah. ancora Speed Caravan, ancora Radio Onda Rossa. Allora, una domanda prima di passare alle conclusioni, ed è sul Libano, nel senso che sicuramente una nazione che è un po' è stata cardine in questi anni, di, sia per quanto riguarda tra virgolette rivoluzioni, sia per quanto riguarda repressione, ma anche di intreccio fra religione e laicità. Ma diciamo che quella che è stata chiamata la primavera di Praga, sì, di Praga, la prima, ovvio il lapsus, la primavera di Beirut dopo l'omicidio di Hariri, di Rafik Hariri, è stato qualcosa del genere, perché in un paese attraversato da una guerra civile a base non solo religiosa ma anche religiosa per 20 anni, l'idea che le ultime generazioni di queste comunità, i musulmani, i sciiti e sunniti, i cristiani, i drusi, eccetera, eccetera, si ritrovassero in qualche modo insieme o parzialmente insieme per chiedere la fine di uno Stato costruito sulle barriere comunitarie, l'avvio di una stagione democratica che, superando queste barriere comunitarie, in qualche modo sgombrasse il campo anche da diktat e controlli esercitati o da nazioni vicine o comunque da dalla vecchia leadership politica, ha posto il problema della democrazia, cioè quello che è accaduto in questi ultimi 5 anni, 10 anni, se andiamo un po' più là nel tempo, in questa parte del mondo, è porre fortemente quella che per alcuni sembrava soltanto i diktat dell'amministrazione americana, no? di diktat dei neoconservatori, posti ovviamente in realtà in tutt'altra prospettiva, no? Cioè quella dell'esportazione della democrazia in questa parte del mondo. In realtà si è visto che il problema non è che qualcuno la porti, la democrazia, qui ci sono delle esigenze reali. Il Libano è stato uno di questi luoghi. Mi piacerebbe ultimamente, perché ne ho già avuto, parlare della parola democrazia, perché forse ci faremo, cioè ci voglio fare una trasmissione apposita, perché ormai mi sembra abbastanza palese che chi usa poi i propri governanti che usano questa parola in qualche maniera tutto come fanno, tranne che, no, certo. Ma anche quello che fanno, o forse arrivati a questo punto potremmo oggettivamente dire che la democrazia questo è, e quindi in qualche maniera forse non è quella la nostra forma di governo, insomma non lo so, però mi piacerebbe parlarne, perché la sento spesso come parola che ritorna in un concetto che poi di concreto e di reale non so come spiegarlo, però di riscontro ha ben poco, non c'è un'attuazione reale forse del concetto di democrazia. Comunque nel caso libanese è evidente, cioè soffocato quel movimento, che non era il movimento di qualcuno ma era sostanzialmente un movimento di popolo che riuniva con molte contraddizioni e molte fratture le diverse comunità, siamo tornati a una condizione precedente, cioè un clima costante adesso di ritorno veramente alla guerra civile e a diktat incrociati sul controllo della politica, cioè un sistema bloccato. Ancora una volta l'immagine è quella del tappo in un paese che peraltro ha anche una condizione sociale particolare, il Libano è un paese più piccolo, più ricco, eccetera eccetera, insomma. Arriviamo a noi invece, cioè all'Italia, parliamo di noi, delle compagne, dei compagni di qua. C'è stata risposta diciamo uguale a zero, mi ricordo anche quando successero delle cose in Iran rispetto agli studenti universitari eccetera, in Italia non c'è stata nessuna risposta. Non parlo delle comunità che vivono qua, perché quelle in qualche maniera si organizzano e rispondono, ma è anche una risposta diversa da quella che noi in quanto occidentali dovremmo forse dare, in quanto compagni e compagne, anche semplicemente secondo me di capire cosa sta succedendo. Ma nel caso iraniano ad esempio le manifestazioni ci furono, il vero problema è che c'erano pochi italiani, insomma, no? Dobbiamo dircelo, il vero problema è che e la vera domanda da porsi è perché un movimento di massa che chiede diritti sociali e diritti democratici, mo chiamiamoli come vogliamo, no? Ma la possibilità di partecipare alle scelte politiche che li riguardano, no? Movimenti di massa di persone che chiedono questo non attraversano l'orizzonte simbolico e culturale del movimento in Italia. Credo che la risposta sia, come dire, purtroppo grave, perché questo tipo di movimenti sono fuori, al momento almeno, da uno schematismo facile. nel senso che non sono movimenti che denunciano l'imperialismo, non denunciano la longa mano dell'Occidente, non denunciano qualcosa che possa essere ascrivibile a una sorta di logica ancora da mondo bipolare che evidentemente qualcuno a sinistra ha drammaticamente ancora in testa, malgrado i muri siano caduti, ma se la prendono con qualcosa che accade in quei paesi, che certo ha legami profondi con l'organizzazione del mondo, perché Gheddafi fa gli accordi con Berlusconi, Mubarak, come dire, e prima di lui Sadat erano molto vicini agli Stati Uniti, non è così per l'Algeria, per esempio, ma il vero problema è che però la rivolta pone un problema che è fuori da uno schema di questo tipo, est, ovest, nord, sud, pone il problema dei diritti e della dignità delle persone in qualunque parte del mondo, e questo pone, diciamo, ai movimenti una sfida grossa, cioè sul fatto che, al di là di quello che si dice a parole, capire se quello che si pone al centro della propria azione politica qui e ora dove si vive non debba andar bene per altri in altre parti del mondo. Io credo la risposta sia sì, e che quindi questa rivoluzione che si sta accendendo nel mondo arabo ci chiami in causa, perché sono fratelli e sorelle di chi si batte qui per la libertà e per i propri diritti sociali, né più né meno. Allora, diciamo che questo potrebbe anche essere un primo appuntamento. La radio sta in qualche maniera continuando a parlarne, stiamo facendo una trasmissione specifica, un sabato sì, un sabato no, quindi sabato prossimo a partire dalle 11 continueremo a parlare della storia del Maghreb e dell'Africa in qualche maniera, andando a capire le ragioni storiche poi di quello che accade, che sono anche sempre fondamentali, ovviamente con dell'attualità. Noi torneremo, spero, sull'argomento, perché è sicuramente molto interessante. Io me lo chiedo anch'io continuamente, su come andare a interagire poi con queste realtà, anche perché penso che se si inizia ad avere relazioni il discorso politico e di dialogo può crescere, altrimenti rimarrà che una parte del mondo è musulmana, una parte del mondo non si capisce che è, una parte del mondo comune, non lo so, insomma, diciamo che rimangono anche da parte nostra dei blocchi, e invece la questione dei diritti comunque è una cosa che attraversa un po' in questo momento tutta varie parti, soprattutto in questo momento il Mediterraneo, perché ce l'abbiamo da una parte e dall'altra, penso alla Grecia piuttosto che all'Albania, bisognerà capire che succederà, come tu dicevi prima, in Portogallo e via dicendo. Quindi sicuramente una riflessione e uno scambio di idee su quello che sta succedendo ci sembrava d'obbligo e anche di conoscenza. Noi per ora vi salutiamo qua e ci rivediamo e ci risentiamo sabato prossimo, non per quanto riguarda la radio, invece, che fra breve continuerà